Europa 24. Un saluto da Marta Cagnola e bentrovati con Europa 24 per parlare di cinema. Sì, perché Europa significa anche cinema. Non è facile definire l'identità di cinema europeo, non c'è un solo cinema europeo. Le differenze linguistiche, oltre che distributive, rendono difficile la circolazione dei film continentali da un paese all'altro. Ci sono programmi europei, ma c'è anche un premio cinematografico. Si chiama Lux e ha una giuria d'eccezione, quella dei membri del Parlamento europeo, la presidente della Commissione per la Cultura del Parlamento europeo, Silvia Costa. Sono tre finalisti e poi alla fine c'è un vincitore, solennemente consegnato nella plenaria a Strasburgo, e poi come premio cosa c'è? Appunto la sottotitolazione in tutte e 24 le lingue ufficiali europee. Il premio Lux, per esempio, quest'anno è stato il polacco Ida, che ha vinto il premio Oscar come migliore film straniero. Beh, ti sembra importante, questa è la dimostrazione che se si aiuta la promozione della nostra cinematografia, noi possiamo anche varcare gli oceani. I film finalisti di questa edizione sono stati svelati a Roma durante la presentazione della sezione collaterale della Mostra del Cinema di Venezia, che come sempre ospita il passaggio veneziano del concorso Le Giornate degli Autori. Il delegato generale Giorgio Gosetti. Andiamo a braccetto, siamo molto contenti che il premio Lux vada a braccetto nostro e della mostra, che consentirà di presentare i tre film finalisti di quest'anno che sono stati rivelati nella nostra conferenza stampa e che sono tre film importanti perché sono tre opere prime forti, aggressive, vivaci, piene di talento, che vengono dai grandi festival, dalle grandi vetrine di tutto l'anno. Ma quali sono dunque i finalisti? Tre opere prime di quattro giovani registi promettenti che trattano di problematiche che toccano da vicino la società europea: immigrazione, istruzione e l'uguaglianza di genere. Mustang, coproduzione Francia, Germania, Turchia, Qatar, è il debutto della regista turca Deniz Gamze Ergüven, presentato a Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs. È la storia di Lale e delle sue quattro sorelle, che in un remoto villaggio della Turchia tornano a casa da scuola giocando con i ragazzi e scatenando inaspettate reazioni. A quel punto la casa di famiglia si trasforma gradualmente in un carcere per loro. Le lezioni a scuola vengono sostituite con quelle domestiche e si iniziano a organizzare matrimoni. Ma le cinque sorelle, animate dallo stesso desiderio di libertà, cercano di contrastare le imposizioni degli uomini e del villaggio. Il secondo finalista è la coproduzione greco-bulgara Urok, la lezione, di Cristina Groseva e Piotr Valkanov, presentato a Toronto e vincitore della sezione Nuovi Registi a San Sebastian. Жалко, някой от вас току-що пропиля шанса да поправи грешката си. Какво става тук? Nadezhda è un'insegnante d'inglese in una cittadina bulgara. Quando a un suo studente viene rubato il denaro per il pranzo, è determinata a trovare il responsabile e a insegnargli una lezione. Ma sarà lei a dover imparare una dura lezione dalla vita quando scoprirà che il marito, l'affettuoso ma totalmente inetto Mladen, ha investito i soldi della casa nell'acquisto di un oggetto futile, dimenticando di pagare il mutuo in banca. Per salvare la casa, Nadezhda scoprirà che è necessario un gesto audace. Infine, il terzo film finalista è diretto da un giovane italo-americano. È Mediterranea, coprodotto da Italia, Stati Uniti, Germania, Francia, Qatar. Il regista è Jonas Carpignano e il film è stato presentato a Cannes alla Settimana della Critica. Il tema attualissimo, quello dell'immigrazione africana in Italia. Perché io fai questo tu? Che lingua è? Italiana? Io Burkina. Burkina Faso. Francese? Il mio film Mediterranea parla di due ragazzi di Burkina Faso che cercano di creare una vita in Calabria. Dato su fatti realmente accaduti, parla della vita del mio migliore amico e coinquilino Buduseon. Il prossimo appuntamento con il premio Lux è alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia, poi nei 28 paesi dell'Unione tra ottobre e dicembre. Il 25 novembre la proclamazione del vincitore della nona edizione. E per questo appuntamento con Europa 24 è tutto. Ancora un saluto da Marta Cagnola. Europa 24. In co- collaborazione con Euronet Plus.